Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Sommando dal campo alla tavola si gettano via 20 milioni di tonnellate di cibo, e che equivale a poter nutrire 44 milioni di persone. A finire nella spazzatura è in genere il 30% del cibo acquistato, soprattutto frutta, verdura, pane, pasta, latticini e affettati. In valore sono 37 miliardi di euro, cioè circa il 3% del prodotto interno lordo del nostro paese. Alimenti che vengono però sempre più spesso salvati dal bidone. Meglio infatti adottare piccole accortezze, come controllare bene le date di scadenza e conservare gli avanzi che possono essere consumati il giorno dopo. La tendenza al risparmio fa sì che si moltiplichino le iniziative come un discorso come questo fino a qualche tempo fa, diciamo un anno fa, un paio di anni fa, poteva far sorridere molte persone, poteva indurre a pensare, sì, sono comportamenti per quelle punte estreme di persone fortemente legate a un'ideologia che non usano l'acqua per non sprecarla, che controllano attentamente ogni loro consumo, che insomma appartengono a quella sorta di genia dell'umanità vagamente connotata come ambientalisti, persone che vogliono fare una vita naturale e via dicendo. Ci abbiamo anche molte volte noi sorriso, ci abbiamo su questo ironizzato. Ci fu un periodo che il direttore del WWF fece una fantomatica intervista in cui diceva che lui usava i piatti senza lavarli, pulendoli con il pane per non sprecare acqua, si lavava pochissimo, non si cambiava le mutande, cose del genere, e ci abbiamo riso tutti. Oggi poi ci troviamo in un frangente che collettivamente stiamo attraversando, che è un termine che comincia sempre più a assumere consistenza, che è il termine crisi. Non è più qualcosa di teorico, non è più qualcosa che sembra appartenere soltanto all'esistenza altrui, è qualcosa che comincia, chi più chi meno, chi più lentamente, chi più velocemente. Certo non vale per l'ex presidente della Regione Lazio Polverini, colta ieri con un autopulmino pieno di guardie di scorta che si andava a comprare delle scarpe in un lussuosissimo negozio romano, andando contromano per via del Corso. Per lei la crisi arriverà più lentamente, che per la signora questa mattina va al mercato, deve guardare attentamente qual è il genere di ortaggio che costa meno, adeguato al suo budget risicato. Beh, di fronte a questo discorso si comincia a fare strada un atteggiamento che è un atteggiamento di altruismo, un atteggiamento di condivisione, che, come vedete, la notizia data in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione 2012 della FAO, un terzo del cibo prodotto finisce nella spazzatura. Voi immaginate quale immensa filiera per produrre il cibo, per coltivarlo, per confezionarlo, per portarlo ai luoghi di distribuzione, per acquistarlo, per conservarlo in casa. Beh, un terzo di tutto questo viene buttato via. Questo significa che probabilmente, se ci guardassimo un pochino più l'uno negli occhi dell'altro, ci sarebbe meno difficoltà, meno crisi. Io non ho mai avuto la vocazione del chierichetto, ma ho avuto la vocazione del buono per necessità, però vorrei sottoporre questa mattina all'attenzione di tutti l'idea del principio di condivisione. Condividere sembra una parola legata soltanto a ideologie, a sistemi morali, a etiche, molte volte a cui si appartiene più per spinta ideale che per reale prassi quotidiana. Beh, condividere oggi è un termine che comincia ad avere qualche significato in più. Il co-housing è un modello abitativo residenziale che prevede che degli spazi privati dei singoli appartamenti siano integrati a degli spazi ad uso comune, anche detti spazi comuni. Chi si muove in auto deve affrontare blocchi, problemi di parcheggio, traffico e conseguente inquinamento, mentre aumentano i costi di benzina, tasse e assicurazione. Una realtà con cui dobbiamo fare i conti, anche perché non sempre è possibile rinunciare del tutto all'auto. E allora? La soluzione si chiama car sharing. Una volta abbonati al servizio si riceverà una card personale. Questi sono degli spot, abbiamo tratto da trasmissioni fatte anni fa, in cui parlavamo di co-housing, di car sharing, come punte avanzate di un pensiero che sembravano appartenere a tutti. La gente ci telefonava, diceva: siamo pazzi, io non dividerò la mia automobile con degli sconosciuti, ma non voglio gente dentro casa e via dicendo. Ma oggi forse l'atteggiamento sta lievemente cambiando anche rispetto ai più scettici. Buongiorno Antonio Galdo. Buongiorno. Antonio Galdo è un amico, un giornalista, un collega, autore radiotelevisivo, scrittore. più volte è venuto ai nostri microfoni a parlare di quella che è la sua visione della vita, che la trovate riassunta in un suo sito, nonsprecare.it, ma è qua perché è uscito il suo ultimo libro per Einaudi, L'egoismo è finito, la nuova civiltà dello stare assieme. Sembra venuto il momento, Antonio, che tutto quello che hai teorizzato in questi anni comincia a diventare una sorta di vademecum per tutti, non soltanto per quelli che idealmente appartengono a una sfera di umanità privilegiata che vede le cose con un occhio diverso rispetto alla comune corrente maniera di pensare. Ma credo che stia salendo la consapevolezza del fatto che questa crisi, prima di essere una crisi economica, è una crisi di paradigmi, è una crisi di fondamentali, e tra questi il fatto che da 30 anni i nostri comportamenti nella vita pubblica come nella vita privata sono ispirati dalla bussola dell'io, io, io, io. Noi abbiamo cancellato il noi, abbiamo cancellato un'idea di comunità, abbiamo cancellato il piacere di stare insieme. Citavi il caso del degrado politico dei nostri stili di vita, dei nostri uomini pubblici. Secondo me, prima della questione morale, c'è la questione che la politica ha perso proprio il senso di mettere insieme una comunità. È diventata, come dire, il luogo dell'io, dove ciascuno, a volte anche gente improbabile, cerca di vincere la lotteria. E questo è il presupposto di una politica che evidentemente prende i soldi e ci va a fare le vacanze. Secondo me, Antonio, siamo ancora in una fase in cui ci fa anche molto comodo, come ho fatto io questa mattina in maniera squallidamente demagogica, avere il paravento della classe politica nella sua fase di putrescenza per salvare la nostra individuale coscienza. È bello, divertente pigliarsi a vedere la Polverini con il suo macchinone che va contromano, la insegue la blogger, la mette su internet e tutti hanno visto che ha comprato le scarpe con il tacco nel grande negozio di Roma. Ma questo ancora ci fa stare in un piano differente rispetto a guardare noi stessi allo specchio. Sì, 800 24 0024, scusa, do il numero. Voi cosa mettereste in condivisione quello che avete? Quale sarebbe la prima area di ciò che ritenete di vostro possesso che per necessità, per fluidificazione del budget, sareste disposti a condividere? Antonio. Ma guarda, hai detto una cosa secondo me sulla quale invito anche gli ascoltatori a riflettere. Non scarichiamo sempre sugli altri il peso di un'idea sbagliata come quella di impostare la vita sull'io. Guardiamoci un momento allo specchio. In Italia succede che ogni quarto d'ora c'è una rissa di condominio. Questo significa che non riusciamo a stare insieme nei condomini. Però ecco, perché ho scritto L'egoismo è finito e perché ho raccontato una serie di storie in giro in Italia e nel mondo, dove appunto declino il cambio di paradigma, perché questo è quello che sta succedendo. In Italia, per esempio, si stanno moltiplicando casi di condomini a consumo zero. Cosa significa? Che mettendo insieme le risorse che riguardano l'utilizzazione dell'energia, riscaldamento e il raffreddamento, si può non pagare la bolletta e addirittura vendere all'esterno. Ma attenzione, per fare questo, che si chiama efficienza energetica, bisogna andare d'accordo. Come potete pensare di gestire cose così complesse facendo delle risse condominiali? Beh, ecco. C'è sempre il vecchietto che la mattina dorme e gli sta bene la casa, certo, fredda, ma la sera la vuole ultra riscaldata, cioè quello che il giorno sta fuori vuole esattamente il contrario. La difficoltà molte volte addirittura è condividere la spesa di comprare quei piccoli apparecchi che si attaccano al radiatore, che ti permettono regolare il consumo di casa tua, puoi spegnere e accendere come vuoi. Nemmeno questo, perché sai, costano 100 euro a pezzo, non possiamo spenderli e non si rendono conto quale sarebbe poi il loro risparmio a fine anno. Questo è il mistero del, in fondo, se vogliamo, dell'amore, dello stare insieme, cioè la capacità anche di cedere qualcosa in funzione però di una cosa più alta, che è appunto la forza di stare insieme. Non è che è stato un po' inflazionato questo termine, l'altruismo, il volersi bene, guardare l'altro? Se ne è parlato talmente tanto in tempi in cui era veramente un'azione motivata da un impeto etico, che ce n'era per tutti, almeno avevamo questa impressione ce ne fosse per tutti, per cui oggi la gente fa, guarda, ti leggo, fa fatica, Un ascoltatore scrive, sempre polemici, tramite SMS: abbiamo cancellato il noi, ma se siamo schiacciati dal debito pubblico e sotto attacco dal mercato perché gli stati hanno speso troppo per il noi, ma che dice il tuo ospite? Ancora una volta si tira fuori, come se lui non avesse un minimo di responsabilità anche in questo. Sì, questa è una tentazione che ciascuno di noi ha, però per esempio il debito pubblico e la spesa pubblica denotano uno Stato, una spesa impostata proprio sull'egoismo. Cioè noi, da un lato, nel libro racconto le storie dell'Alzheimer, allora noi da un lato finanziamo pensionati cinquantenni, e qui è l'io, cioè qui è l'egoismo, qui è l'idea sbagliata che lo Stato possa mandare in pensione le persone a 50 anni. Ma l'egoismo è finito se pensiamo che in Italia ci sono 800.000 malati di Alzheimer le cui famiglie non ricevono un euro dallo Stato, dal pubblico, e sulle loro spalle reggono l'urto di questa bomba che è una malattia come l'Alzheimer, che come sapete spariglia completamente disabilità non è una condizione molte volte che ci troviamo addosso alla nascita, ma tutti possiamo diventarci prima o poi, anzi più entriamo nei risultati di questa società del benessere, più ci rendiamo conto che è molto facile che in maniera precoce perdiamo la nostra lucidità, perché c'è una società che una volta che ci fa fuori per sempre. E rimanere fuori dalla società in età non proprio decrepita molte volte favorisce anche una sorta di fuga dalla propria lucidità. Filippo, buongiorno. Eccomi qua, salve. La mia esperienza è che condivido il salotto. Io lavoro da casa, ho un home office, di giorno ci lavoro, di sera molto spesso ho degli ospiti che vengono da tutto il mondo. Se non mi sbaglio ne avete già parlato. Couchsurfing è un sistema con cui si riesce a capire molto bene in anticipo che tipo di persone ti vengono in casa. Psicologicamente interessante, perché quasi mi mancano questi, diciamo, amici, perché alla fine diventano amici internazionali che mi occupano il salotto, che mi distruggono la privacy, che mi obbligano a tenere il bagno più pulito del solito, e che soprattutto mi obbligano a tenere la casa più in ordine del solito. E la trovo un'esperienza molto positiva, e secondo me è proprio quello che dicevi prima, anche psicologicamente un approccio un pochettino diverso a quello che è mio, quello che non è mio, quello che è di altri. Fammi capire, Filippo, come funziona? Prego. Tutte le sere tu hai degli ospiti a casa tua? Non tutte le sere, vai e viene. Qui a Milano c'è uno che ti consiglierei di intervistare, che avrà avuto circa 500-700 ospiti nel giro di 6-7 anni. Ma che ora se ne vanno questi da casa? L'ora è poco rilevante, perché stanno a dormire. Dormono che, proprio lì? Sì, esattamente. C'è questo meccanismo. Io pensavo venivano a bersi qualcosa e poi andavano a casa. Volendo si può organizzare anche qualcosa di quel genere, ma soprattutto è un meccanismo per offrire gratuitamente ospitalità e ottenerla quando viaggi. Ma tu devi dargli dei posti letto, dormono sul divano, si arrangiano? Ci si mette d'accordo prima, nel senso che ci sono alcune persone che dicono: ho soltanto lo spazio per terra, vieni con il sacco a pelo, ti arrangi, oppure hanno delle case bellissime con il bagno separato, eccetera. Si va da quasi campeggio all'hotel 5 stelle, dicono. Io sono più o meno a metà strada, nel senso che mi sono preso un divano letto convertibile apposta per questo, ce l'ho nel mio ufficio. La gente che viene o non viene, oppure se viene è gente che io addirittura mi fido a dargli le chiavi di casa. Li selezionano prima con un sistema abbastanza... Ma esiste anche un vantaggio tipo economico? Qualcosa? No, esistono, ci sono degli altri circuiti dove c'è anche questa possibilità, Airbnb eccetera, ma nel caso di Couchsurfing l'idea è proprio dell'ospitalità assolutamente gratuita. E c'è questo sistema di referenze per cui si può scegliere se prendersi il rischio di portarsi a casa una persona che non ha esperienze, non ha referenze, eccetera, oppure di essere molto selettivi e pretendere che se viene qualcuno deve per forza avere già avuto, mettiamo, 5, 10, 20, 50 referenze da parte di ospitanti che li hanno visti comportarsi bene, che hanno visto che è gente simpatica, eccetera. Uno ci si salva dall'uso improprio della propria casa, in questo caso mi sembra giusto. Comunque, diciamo, c'è un vantaggio, si socializza, e a tua volta, se tu vuoi, sai che hai un circuito in cui puoi andare a costo zero a pernottare in altre città. Immagino che sia questo il punto. Marco, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo sì, dire la mia riguardo al suo quesito, io non metterei in condivisione nulla. Il suo punto di vista, mica dico sia disprezzabile. Assolutamente, credo che in realtà non siamo tutti nella stessa barca. Io nella mia vita ho perso il lavoro 7-8 volte, mi sono sempre riabbassato la testa e ho avuto momenti anche molto pesanti nella vita e mi sono sempre, come dire, con grande fatica rimesso in piedi. Oggi dover condividere, probabilmente istintivamente lo farei nel momento in cui mi trovassi davanti delle situazioni specifiche, ma così in astratto le direi di no, perché io sarei... Ma non mi pare che noi diciamo in astratto, guardi, io non voglio, figuriamoci se voglio fare il predicatore della fratellanza, non è proprio nella mia indole. Io sto cominciando a capire, esistono delle forme comunque che vanno a supplire delle carenze oggettive che ci sono per vivere con lo stesso livello dignitoso a cui siamo abituati a vivere. L'ascoltatore che ha sentito prima divide il suo salotto non perché ancora si ha la fame, perché comunque socializza delle persone, si sente di avere della gente in casa e gli piace stare in questo giro. Antonio Galdo, rispetto a queste due telefonate. Guarda, chiariamo un equivoco. Qui non c'è nulla di astratto, qui siamo di fronte a una realtà molto concreta ed è esattamente quello che tu dicevi all'inizio. Non è che siamo qui a fare i salesiani a dire voletevi bene. Qui siamo passati da fenomeni di minoranze, anche un po' elitarie se vuoi, a fenomeni di massa, di costume. Questo è il cambiamento che io racconto nel libro. Fai un esempio concreto. L'egoismo è finito. Vediamo. Non ne faccio due. Uno è che in questo momento ci sono milioni di persone che, attraverso poi la forza della rete, scambiano oggetti, scambiano passaggi in automobile, scambiano case per le vacanze, scambiano i servizi di babysitter. Cioè, in questo momento ci sono, e nel libro sono raccontate anche le storie di alcuni di questi siti, meccanismi attraverso i quali tutto ciò già avviene. Secondo esempio. Ma non perché l'umanità è diventata buona, perché no, è una maniera per vivere meglio. Questo. Bravo, qui c'è una spinta data dallo stato di necessità e dall'idea e dalla consapevolezza, di cui io sono convinto da tempo, che questa crisi, che segna un cambio d'epoca, è una crisi dalla quale non si esce da soli, si esce recuperando quest'idea di stare insieme. Ti faccio un esempio personale. Io sto cercando di fare un coordinamento di genitori di ragazzi autistici, perché lo sanno alla radio, l'ho detto più volte, quando un figlio autistico diventa maggiorenne o anche dopo adolescente non esiste nessuna struttura che ci pensi, quindi l'unica maniera è che i genitori che hanno lo stesso problema si mettano insieme e facciano una struttura, ci pensino loro. Questo è un esempio che significa, se portato al campo dell'handicap, tu parlavi poco fa dell'Alzheimer, già ci stanno telefonando, quindi il problema c'è, e non si può stare sempre a aspettare che qualcuno ci risolva il problema. Aiutandosi e mettendo in condivisione forze, necessità e problemi, forse se ne esce meglio. Luigi, buongiorno. Buongiorno. Velocemente, lei è un camionista? Sono un camionista e volevo innanzitutto buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Non le nascondo che sono un po' emozionato a parlare con lei. Racconti il fatto. Allora, io mi trovavo a scaricare il mio camion in un centro di distribuzione di un grosso distributore alimentare. E abbiamo notato con altri camionisti che eravamo lì a chiacchierare il tempo che scaricavano il camion, un container di quel trasporto dei rifiuti alimentari pieno di peperoni e zucchine. La cosa ci ha un po' così colpito, ma come? Perché li buttano via? E in fondo uno si è arrampicato e ha spezzato la zucchina, ancora era buona, insomma, voglio dire. Cioè erano ortaggi buoni che venivano buttati comunque. Venivano buttati, e volevo giusto dire questo, lo spreco che c'è per contribuire con la mia testimonianza allo spreco che c'è in Italia. Cosa dice Antonio rispetto a questo? Che lo spreco alimentare, che non è solo quello della grande distribuzione, ma è quello dei nostri frigoriferi, dove gettiamo circa il 16% della spesa nel secchio dell'immondizia, è l'egoismo, è l'immagine dell'egoismo. L'egoismo è finito, il titolo del mio libro, perché in questo momento stiamo anche appunto per stato di necessità diminuendo questo tipo di comportamenti, mentre tu prima citavi il tuo caso e facevi riferimento all'Alzheimer. Guardate che nel libro sono raccontate le storie attraverso le quali associazioni di famiglie, di donne, di cittadini, senza lo Stato, da sole, si sono rimboccate le maniche e hanno costruito questa straordinaria rete con la quale una malattia infernale come l'Alzheimer, con la quale bisogna condividere per 20 anni, viene affrontata e agguantata. Nel libro si raccontano le storie del co-housing, che prima sembrava appunto quasi una parola misteriosa. Adesso ci sono perfino dei fondi di investimento i noti finanzieri, che una volta tanto non giocano alla roulette del compra e vendi, ma investono per fare edilizia destinata al co-housing, che altro non è che un'idea di stare insieme, dove però certo ci stanno facendo gli ascoltatori via SMS grandi esempi di spreco, ma non stiamo parlando soltanto di spreco questa mattina, parlano di pane, focacce buttate via nella grande distribuzione del pane, ci fanno tanti altri esempi. Parliamo di un concetto un po' diverso, non equivocate, stiamo parlando con Antonio Galdo del suo libro L'egoismo è finito, edizioni Einaudi, La nuova civiltà dello stare assieme. Qua non è che riproponiamo un vecchio modello di comune, non è che vogliamo fare una società fatta di hippies che vivono tutti assieme, si passano la canna e vivono tutti sotto una baracca o sotto una capanna e sentono figli dei fiori, quindi un contatto con la natura, mangiano vegano, queste cose qua. No, un'altra cosa, è delle necessità a cui dovremmo, senza riuscire a sfuggirne, pochi ne sfuggiranno, saranno sempre meno quelli che ne sfuggiranno, fare mente locale un po' tutti. Sento qualche ascoltatore, poi Antonio Galdo ci farà qualche esempio pratico di quello che significa una nuova maniera di concepire la condivisione, che non è un concetto di tipo morale, di tipo etico, sì, è un concetto di necessità di sopravvivenza. Molti mi stanno scrivendo, dice, ah sì, bello spessore etico, voi parlate di stare assieme solo per non morire di fame. Sì, anche questo mi sembra che ha la sua etica, il non morire di fame. Andrea, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Io sono iscritto a un gruppo internet della città di Roma, di un network internazionale con 10 milioni di iscritti nel mondo in 5.000 città. E che fa? Cosa fate? Il network si chiama freecycle.org, gli iscritti rigorosamente regalano oggetti di cui non hanno più bisogno ma che possono ancora essere utilizzati. Quindi lo scopo è duplice, da un lato quello di evitare che oggetti ancora buoni finiscano in discarica, dall'altro quello di limitare il consumismo che richiede la produzione di un oggetto di cui qualcun altro ha bisogno e che invece giace inutilizzato in qualche cantina. E dare anche aria e spazio alle proprie case, che molte volte sono piene di oggetti che non usiamo più. Senz'altro, questo è uno scopo, diciamo, secondario. Il primario è quello del rimettere in circolazione degli oggetti che ancora possono... Mi fa qualche esempio di oggetti di cui lei si è liberato a favore di altri? Ma guardi, recentemente mi sono liberato di videocassette che non utilizzavo, è venuto a prendere uno che ha un asilo nido con ancora un videoregistratore per farle vedere ai bambini, poi ho regalato... Lo sa, le dico una cosa, ho salvato io qualche mese fa uno scatolone di bellissimi VHS che erano stati buttati via. E anche noi l'abbiamo un po' regalati a una scuola, perché basta dargli poi un lettore VHS che li abbiamo in cantina un po' tutti, si acquistano veramente per pochi spiccioli, e comunque sia delle persone, un centro anziani, una scuola, un asilo, può vedersi dei film fantastici, i famosi film incellofanati dell'unità, inserti l'unità che ancora tutti hanno a casa incellofanati, per qualcuno potrebbe essere una bella risorsa. Sì, ma ad esempio anche un pochino più concreti, un rasoio di quelli vecchi con le lamette intercambiabili che io cercavo da tempo, l'ho trovato con Freecycle, ho regalato una bicicletta di mio figlio che non usavo più, scarponcini da montagna di mia figlia cui è cresciuto il piede, quindi di qualunque cosa rigorosamente deve essere regalata senza condizioni. Molte volte gli scarponcini di montagna li tengono una stagione e poi cresce il piede, sono nuovi. Sì. Davide, buongiorno. Buongiorno a te. L'esperienza è quella che dall'essere un uomo che mangiava la carne, uccidevo, macellavo, eccetera, eccetera. C'è che c'è un delitto, no? No, cioè, ci sarebbe anche questo lato. Però... Non vedo l'ora che viene la stagione del maiale. Io, comunque, dica. Fai bene. E ho imparato che invece non mangiarli più diventa anche un ottimo modo per aiutare il resto della società, perché questa è una scelta di vita, è rispettabile, però è un po' difficile, imporla in larga scala. No, non si impone a nessuno. Lei ha fatto una sua scelta di vita, però non è che condivide nulla lei, non mangia le galline, ma condivide questo. Condivido poi anche altre cose, le mie prestazioni lavorative che spesso sono date in cambio di generi materiali, non di soldi. Io vivo ormai di poco, da una vita professionale sono passato ad una vita semplice, fatta di poco. E ripeto, è un punto focale quello di non mangiare più gli animali. Ma quale sarebbe il contributo che dà la società non mangiando gli animali? Questo vorrei capire. Se vogliamo parlare di questo ci vuole un'altra mezza puntata. Vabbè, la solita storia che diciamo le mucche bucano l'ozono con queste cose. Beh, qua. Beh, forse lei non lo sa. Ma no, lo so. È una cosa molto importante anche questo. E poi, come diceva il grande Terzani, è un errore per una società. Sì, vabbè, io questi profeti, con tutto il rispetto, in questo momento non trovo molto attuabile. Sì, benissimo, anch'io guardi, sto per facendomi crescere una lunga barba bianca e fra un po' mi metterò un bel saio. Antonio Galdo, andiamo di andare sul concreto. Dunque, nel libro L'egoismo è finito, il fenomeno che citava l'ascoltatore del Free Cycle, lo racconto dalla sua genesi, nasce con un visionario americano che ha creato questa piattaforma, oggi applicata in tutto il mondo, dove sostanzialmente lo scambio di oggetti avviene, la cosa singolare molto spesso, che avviene con uno che abita nella tua strada, che magari non sapevi che appunto ha qualcosa da scambiare. Guardate come dietro questo concetto, dietro questa idea, come dicevi tu, di utilità, convenienza, si cela l'idea appunto di stare insieme, di fare rete, perché racconto appunto... Scusami, Antonio, perché bisogna subito chiarire. Spiega la differenza fra il co-housing e la vecchia coabitazione coatta ai tempi dell'Unione Sovietica e della bene. Russia comunista. Ecco, perché no, sennò... Spieghiamolo bene, perché questo genera enormi equivoci. Il co-housing e tutte le forme anche dei condomini, come un ascoltatore ci faceva notare con un messaggio, non ha nulla a che vedere con la comune marxista e post-marxista. Non c'è nulla di ideologico, non ci sono quelli con gli spinelli. C'è un'idea molto pratica e molto concreta che riguarda il co-housing, e cioè insieme, attraverso il noi, forse riusciamo a comprarci una casa e forse riusciamo a vivere meglio, perché il co-housing significa, come racconto nel libro L'egoismo è finito, attraverso dei casi concreti, come dei gruppi di persone semplici che a Torino hanno comprato in un vecchio quartiere torinese un intero palazzetto, hanno diviso gli appartamenti, quindi hanno cominciato dall'inizio a condividere e poi hanno deciso di creare tutta una serie di spazi comuni, che sono i servizi, la lavanderia, il giardino, il terrazzo, il luogo dove mettere i bambini quando si va a lavorare, eccetera, eccetera, che fanno sì che co-housing, cioè si sta insieme, ognuno nella propria casa. Intanto hanno casa, se no non l'avrete. Mi hanno fatto i conti, nel libro troverete le cifre. Quegli appartamenti senza questo meccanismo non potevano permetterseli. Ecco dove l'egoismo è finito e dove stare insieme, declinare il noi conviene. Considera, non sono case a metà, vorrei spiegare, sono case razionalmente distribuite. Non sono case di cooperative, sono case assegnate al signor Antonio Galdo, al signor Mario Rossi, dove però ci sono degli spazi condivisi. Sapete che significa condividere un terrazzo di 300 metri quadrati? Che quel terrazzo da solo non te lo puoi permettere. Insieme. Tu pensa, Antonio, è una battaglia che con alcuni illuminati condomini ho fatto da anni. Gli Umarell del mio condominio ci hanno impedito di usare il terrazzo condominiale per farne un luogo di gioia per tutti. E no, poi ci portate le donne, mi hanno detto. Bruno, buongiorno. Pronto? Eccolo. Sono Bruno. Sì. E sono in linea? Certo. Ah, allora io mi riferisco al risparmio energetico per quanto riguarda i riscaldamenti condominiali, perché lavoro in quel campo. Allora, già adesso, se i condomini fossero un attimino più attenti e non seguissero sempre quello che gli dicono i vari amministratori, ci sono delle possibilità di risparmio veramente eccezionale. Lei faccia conto che una vecchia caldaia a gasolio, rifare l'impianto nuovo, riqualificare l'impianto, importarla a metano, c'è già il 50% di risparmio. Perché c'è ancora chi non lo fa questo? No, non lo fanno perché ci sono i soliti. Mi sembra singolare che ancora non abbiano convertito le vecchie caldaie a gasolio a metano. Ma non le convertono perché c'è poca informazione. Un'altra cosa, chi ha anche una caldaia già a metano e passa al servizio energia, che solo poche aziende possono fare. Il servizio energia sa cos'è? Quello che vende lei. Esatto, noi, cioè noi compriamo il combustibile e vendiamo il calore. Cosa succede? Che comprando il combustibile per vendere il calore dobbiamo ottenere il rendimento dalla caldaia. Il vecchio manutentore di una volta, che invece fa comprare il combustibile al condominio, se la caldaia non è ottimizzata non gliene frega niente, basta dar più caldo, alza un po'. Già il passaggio da servizio energia a normale servizio c'è già un 10% di risparmio. Vabbè, questo ti acqua giustamente al suo mulino, è chiaro, molto chiaro. Sì. Pierluigi. Sì, salve Nicoletti, sì. Buongiorno. Lei tocca, tocca un punto molto interessante, mi domandavo anch'io come mai in uno stabile esistono, che ne so, 50 uffici, ognuno di loro deve pagare l'abbonamento per la rete autonomamente. Invece lei cosa dice? Sì, guardi, non tanto, questo è il punto, cioè di risparmiare sull'abbonamento internet, quando di condividere una rete che sia indipendente dagli influssi, dai filtri dei provider come esistono attualmente. Parlo anche di esperienze molto attuali, quali i paesi arabi che filtrano internet e applicano delle quindi politiche. Lei mette in condivisione il suo wifi? In condivisione non io, ma insomma siamo tantissime persone a Roma. La community si chiama Ninux, è nata da un gruppo di entusiasti, in parte radioamatori, in parte studenti di ingegneria. Insomma, ci siamo espansi e condividendo la rete, quindi non internet esattamente, ma condividendo questa possibilità di accesso ad un canale comune che poi l'etere, no? Riusciamo a essere in comunicazione stando sicuri che nessuno possa filtrare la nostra libertà di pensiero, la nostra libertà di espressione. Quindi voi avete messo una rete, diciamo, anticipate quello che ancora aspettiamo con le varie agende digitali. Vabbè, per Luigi, interessante. Torniamo a Antonio Galdo, diamo qualche esempio, visto siamo in chiusura, mi sembra che abbiamo già sfatato le possibilità di equivoco rispetto a condizioni coercitive di convivenza, non è questo. Andiamo su altri campi che hanno già toccato i nostri ascoltatori. Sì, un altro campo è quello del lavoro. Uno dei racconti del libro L'egoismo è finito è il co-working, altro fenomeno di grande espansione. Che cosa significa il co-working? Significa la possibilità di condividere degli spazi, degli uffici, dei servizi, delle linee telefoniche e, attenzione, stando insieme, partendo dalla necessità, partendo dalla utilità di questo meccanismo, condividere e contaminare anche le proprie esperienze professionali. Nel libro c'è il racconto del Talent Garden vicino Brescia, esperienza straordinaria di un gruppo di ragazzi che sono partiti per condividere questi spazi facendo ognuno di loro un tipo di lavoro che abbia a che fare con il web, va bene? Dopodiché che cosa è successo? Che le domande sono aumentate e che loro stanno tentando di fare il salto, far diventare questo luogo, un luogo di co-working, una sorta di mini distretto del web, di professionalità del web, perché stare insieme significa anche questo, significa... Hanno creato una holding a loro esatto, modo. Esatto, esatto. La cosa bella, e nel libro L'egoismo è finito lo raccontano, che alcuni di loro hanno rifiutato il posto di lavoro fisso, perché credono in questa avventura. Anche qui, guardate, non c'è nulla di ideologico, non c'è nulla che abbia a che vedere con il salario garantito per tutti, anzi c'è competizione, c'è innovazione, ma c'è un'idea forte, insieme forse ce la facciamo. Tommaso, buongiorno, Tommaso. Buongiorno. Veloce. Niente, facciamo parte di un gruppo di acquisto solidale, ci siamo organizzati con altre famiglie per comprare direttamente dai piccoli produttori frutta, verdura, parmigiano, assicurandoci così la freschezza e la stagionalità e un prezzo decisamente competitivo rispetto alla grande distribuzione. Abitate tutti accanto, più o meno vicini, oppure? Sì, più o meno tutti vicini, comunque si fa riferimento a turno, si va a ritirare la verdura, la frutta dal contadino proprio e poi ci si ritrova per la spartizione. Antonio Galdo, questo è un esempio contemplato? Beh, è un esempio che, come dire, non solo è contemplato, ma questo è un esempio di quello che ti dicevo, cioè non stiamo più ai fenomeni di nicchia. Sul sito Non Sprecare trovate centinaia di consigli per risparmiare, per fare meglio gli acquisti, eccetera. Ma quello che l'ascoltatore ci raccontava, il GAS, cioè il gruppo di acquisto solidale, che sembrava un'altra invenzione di minoranze, come dire, elitarie. Sapeva di ideologia. Bene, oggi il 6% della spesa passa attraverso questa rete. Guardate insieme che miracolo si fa. Si risparmia un 30, un 35% rispetto a quello che si paga nei non negozi. Non trovi, Antonio, siamo proprio in conclusione. Che il vero ostacolo è proprio quello di abbattere il pregiudizio che sia una scelta di appartenenza, di ideologia. È una scelta trasversale. È una scelta di libertà. Ed è una scelta di amore. Aristotele diceva: non si può essere felici da soli. Rifletteteci, l'egoismo è finito perché da soli c'è il rischio altissimo, la seria probabilità di essere scivolare nella solitudine e quindi nell'infelicità. Insieme sicuramente si sta meglio. Grazie Antonio Galdo, grazie Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini. Ci sentiamo lunedì.